America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Oggi vorrei fare una puntata di solo andata e vorrei farla con un personaggio di cui abbiamo già parlato in una puntata precedente, ma che oggi è con noi ai microfoni di America 24, Andrew Viterbi. Buongiorno Viterbi. Buongiorno. Andrew Viterbi, classe 1935, ha rivoluzionato il modo in cui la telefonia cellulare può funzionare e ottimizzare i metodi di comunicazione e soprattutto ha una storia tipica da solo andata, perché a un certo punto ha comprato, era piccolissimo e quindi il biglietto lo hanno comprato per lui i genitori, ma comunque un biglietto che lo ha portato in America in anni che erano anni piuttosto bui, nel 1939, quando in Europa, in Italia c'erano le leggi razziali, quando la Germania si stava preparando a invadere la Polonia. Insomma, stiamo parlando di eventi che appartengono ormai alla mitologia storica, ma non per lei, Viterbi, è vero? No, io ero bambino, avevo 4 anni e eravamo, quello che mia mamma mi ricordava sempre, siamo rifugiati, quindi dobbiamo stare bene attenti, soprattutto per le finanze. Ma certo, mio padre dopo 60, aveva quasi 60 anni, e trovarsi gettato fuori nel modo che è stato è una cosa che io mi ricordo da allora e non me lo sono mai dimenticato. Perché ricordiamolo, nel 1938 in Italia ci furono le leggi razziali, furono introdotte e di fatto privarono di qualunque diritto le persone di origine o di religione ebraica, e molti a un certo punto, quando erano stati espulsi in università, quando erano stati cacciati dal posto di lavoro, quando avevano perso l'azienda, decisero di partire, di andarsene, di scappare dall'Italia, e quelli che scapparono fecero bene, perché quelli che rimasero poi purtroppo finirono in molti nei campi di concentramento. Ecco, lei ha dei parenti che sono finiti nei campi di concentramento? Beh, siamo stati molto fortunati. Tutti i parenti stretti sono tutti salvati, o in Svizzera o nelle montagne del Piemonte, o in certi casi anche salvati da sacerdoti e da suore in conventi. Però avevo un cugino acquisito che ha sposato la mia prima cugina a Torino, che si chiamava Primo Levi, che credo che è ben noto da tutti i lettori italiani. E lei quindi arriva in America, impara ovviamente, si integra immediatamente, dopodiché fa le scuole e poi approda al college e, se non sbaglio, approda all'MIT. Ecco, com'era l'MIT negli anni 50? Era un altro mondo, era un mondo molto più semplice, ma già allora era nota per essere il miglior politecnico d'America, in seguito del mondo. Ero molto fortunato, in quanto sono cresciuto a Boston, ho fatto tutte le scuole, quasi tutte le scuole a Boston. Era naturale per me, mi interessava la matematica, le scienze, e quindi l'MIT era chiaramente la mia meta. Ho visto che c'erano anche dei professori italiani che insegnavano allora. Erano dei cervelli scappati perché anche loro di origine ebraica, oppure semplicemente perché avevano trovato un posto dove operare? No, perché erano tutti ebrei. Bruno Rossi, un famoso fisico, Roberto Fano, un professore di matematica, lui e suo fratello Ugo sono venuti, tutti e due famosi per i loro lavori molto diversi. E se queste persone, se questi cervelli, incluso il suo ovviamente, fossero poi rimasti in Italia, lei crede che avrebbero e che avreste potuto fare le stesse ricerche e contribuire a quello che è un elemento essenziale dell'economia contemporanea allo stesso modo, oppure il lavorare in un ambiente americano vi ha aiutato? Anche se non ci fossero state le leggi razziali, c'era sempre Benito Mussolini e il suo governo corrotto e disgustante, quindi chi lo sa. Arriviamo alla sua ricerca, perché lei a un certo punto ha un'idea. Quando è che sviluppa il codice di Viterbi? In che anno? 1966, ero professore all'Università di California, Los Angeles, UCLA, e un po' anche per insegnare ai miei studenti dei concetti piuttosto difficili, e complicati, e io li ho un po' semplificati, e nel semplificarli sono caduto su queste idee che poi mi furono dati il mio nome, e quindi da questo ho avuto anche più fama di quello che meritavo. Beh, insomma, nulla capita per caso. E poi però la cosa interessante che spesso succede in America è che lei dalla carriera accademica è poi passato alla fase pratica. Ci sono comunque voluti, se ho fatto bene i calcoli, 24 anni dal momento in cui lei pubblica il codice di Viterbi fino al momento in cui negli anni 90 con la Qualcomm gli trova un'applicazione pratica, giusto? Sì, però nel frattempo li abbiamo utilizzati molte volte per scopi di comunicazione privata, cioè particolarmente per la difesa. Quando passate, diciamo, dalla fornitura al governo americano, al Pentagono, al privato? Direi dai 15 ai 20 anni ci è voluto per una realizzazione pratica commerciale. E quindi il matrimonio fra lei e Qualcomm poggia su un'applicazione che deriva dal codice di Viterbi e che consente di fare che cosa ai telefonini? Qual è stata la fortuna di Qualcomm usando il suo codice? A quel punto, quando abbiamo cominciato con i telefonini, c'era già il GSM in Europa, non negli Stati Uniti. E c'era un altro sistema negli Stati Uniti che era inferiore al GSM. E noi abbiamo dimostrato un miglioramento relativamente agli analogici di 10 volte, da 10 a 20 volte. Quando dico miglioramento vuol dire che potevamo sostenere e supportare a 10 volte, da 10 a 20 volte il numero di telefonate sulla stessa banda. Quindi non sbaglio se dico ai nostri ascoltatori che il loro telefonino funziona come funziona nella stragrande maggioranza, direi in quasi tutti, grazie al suo codice e grazie a questa applicazione Qualcomm. Ecco. Diciamo però la verità, il mio codice è solo una parte del sistema, è una piccola parte, ma che lo migliora abbastanza, però ci è voluto molto di più di quello, e questa tecnologia di spread spectrum o CDMA è anche più importante nei cellulari che il mio algoritmo. Se lo aspettava quando studiava all'università e quando insegnava che avrebbe potuto avere un successo imprenditoriale tale da renderle, come dire, una prospettiva di una serena vecchiaia? No, non avevo la più vaga idea, e neanche quello scopo. Non era quello lo scopo per niente, era più l'interesse e la curiosità scientifica. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, chiudiamo la settimana con la prima serie di canzoni nella classifica della National Public Radio dei migliori brani usciti nei primi sei mesi del 2013. Oggi ascoltiamo di Valerie June, You Can't Be Told. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!